Europa 24. Cari ascoltatori, ancora un saluto da Gigi Donelli, benvenuti all'appuntamento con l'Europa, Europa che parla proprio in questi minuti dal Consiglio europeo a Bruxelles. Matteo Renzi, dunque il Presidente del Consiglio, che uscendo dall'incontro dice: siamo di fronte ad una minaccia globale. Naturalmente si riferisce all'attacco di Tunisi e prosegue: c'è chi ha detto che bisogna chiudere le frontiere, ignorando che questa vicenda è accaduta fuori dalle nostre frontiere. Insomma, l'Europa deve prendere una posizione. I leader dell'UE condannano quello che definiscono lo scioccante attentato contro la Tunisia, esprimono vicinanza alle famiglie delle vittime e al popolo tunisino. Poi una nota importante: l'UE, si legge in una dichiarazione dei 28, intensificherà la cooperazione con la Tunisia contro la minaccia terroristica e per sostenere il paese nella democrazia, e lo farà sostenendola economicamente, un punto importante, molto atteso proprio all'interno, in queste ore, all'interno della Tunisia stessa. E ora cambiamo tema, il governo greco deve passare dalle parole ai fatti, così il commento del capogruppo PPE al Parlamento europeo, Manfred Weber, dopo il mini summit di ieri sera a margine del vertice. Alexis Tsipras dice: ha mostrato di essere molto bravo nel fare promesse, non tanto nel mantenerle. Insomma, continuano le polemiche a distanza, in particolare tra Germania e Grecia. Intanto i lavori vanno avanti, sentiamo il punto sul Consiglio europeo realizzato da Valeria De Rosa. Tutta colpa di quel finto video che mostra il dito medio di Varoufakis alla Germania. Ha fatto deragliare la discussione, dice il ministro dell'economia greco. Ora siamo pronti a procedere. L'accordo di febbraio, ribadito nel vertice di ieri sera, è un'eccellente opportunità. La Grecia torna al tavolo e l'Europa chiede ancora una volta una lista di riforme. Tsipras si impegna a compilarla sotto la propria esclusiva responsabilità, ma chiede anche che se ne parli poi solo a Bruxelles, perché è stanco di leader che in privato lo appoggiano e poi lo fanno stroncare dalle istituzioni europee. Oggi al Consiglio è la volta del terrorismo e della crisi libica. I expect from the heads of state and government this morning a strong mandate to explore all possible ways. Mi aspetto dai leader europei un mandato forte sulla Libia per esplorare tutti i possibili modi in cui l'Unione può sostenere il futuro governo di unità nazionale. Così Federica Mogherini prima di sedersi al tavolo del Consiglio. Poi l'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione aggiunge: per essere molto chiari, non stiamo pianificando un intervento militare, nonostante la crisi libica sia drammatica. Dunque il punto è questo: impossibile continuare a glissare sulla situazione nel Mediterraneo, come avrebbe fatto notare ieri sera il premier Renzi, soprattutto dopo i fatti di Tunisi. Spingere però affinché sul territorio tutte le parti si uniscano, fornendo un fronte unito, così da poter prestare appoggio. Dell'altra crisi, quella russo-ucraina, si è parlato invece ieri sera e il presidente, il polacco Tusk, è riuscito a riaffermare che le sanzioni per Mosca sono vincolate al completo raggiungimento degli accordi di Minsk, dunque ben oltre luglio. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E intanto il numero di richiedenti asilo nell'Unione Europea nel 2014 ha toccato la cifra record di 626.000, facendo registrare un aumento del 44% rispetto al 2013, pari, pensate, a 191.000 persone in più. La quota più alta, oltre 200.000 e con un più 32%, si è registrata in Germania, seguono la Svezia e l'Italia, con 64.000 richieste, il 10% in più. Insomma, i richiedenti asilo in Italia di fatto sono più che raddoppiati rispetto all'anno precedente. Con questo è tutto per il nostro appuntamento di Europa 24, che ritorna naturalmente la prossima settimana a ripartire da lunedì alla stessa ora. Un saluto. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.